This is a song for the lady, to the core of that time, totally a man. With this lady, come back. This is a song dedicated to Kate. Yeah? This is dedicated to Kate. You are girls, you are beautiful girls, baby. And dedicated to now my sweetest love, Pamela. Maybe to love. To love. Maybe too beautiful. Maybe you know the love of my life, but I won't just talk to the dogs of love. I wanna just talk to the love dogs of love. I wanna just talk to the love dogs of love. Lord, sorry love, if I sing this song for love, I wanna just talk to the love dogs of your heart, baby. Maybe for a future baby also. This is my love song. It's gone to come like this. Quando ci rivedremo ancora, quando poi sarà il tempo dell'aurora, quando ci rivedremo dirai ancora, ancora una volta, tu viso in visione a placare tremore, tu mia dolce signora. Sei tu nei miei disegni, sei tu che fai bella l'amata dimora, come vige il tuo canto di gelo a suggellare stare bella storia, tu che mami dove il tempo finisce in cielo sua eterna tempata pura gloria. Quando ci rivedremo ancora, quando poi sarà il tempo dell'aurora, quando ci rivedremo vivrai ancora, ancora una volta, ancora una volta, tu vise in visione a placare tremore, tu mia dolce signora. Sei tu nei miei desideri, sei tu che fai bella l'amato dimora, ove vige il tuo canto di ugello a suggellare storia per la storia, tu che mami dove il tempo finisce in cera tua eterna tempata scura gloria. Scura gloria, il cuore che dentro me di lei rugge, il cuore che dentro di me lei rugge, il cuore che dentro me di lei rugge, rugge, la scura gloria, la scura signora. Ora c'è lei e porta via tutto il ricordo di te, dopo di lei, non so, o forse solo per sempre lei, dove col cuore oso, dove lei e io abbiamo un'ora. Ma domani enigma della sicura memoria, volo raso, volo raso, volo raso. Se ami me dimmi col tuo bacio, e pur nel vento già ora tu mera, anche di nome dire di sì siamo insieme. Ma del domani non è ancora accesso seme d'amore, solo testimone non rime il mio cuore, solo testimone non rime il mio cuore che va e viene. Certezza del nostro insieme nella valle delle lacrime, certezza del nostro insieme nella valle delle lacrime. Vorrei illuminare i tuoi ricordi per illuminare tragitto assicuri e storie accordi di memorie di giorni sordi rifatti in musica, amando i tuoi sogni di nuova linfa limpidi. Vorrei illuminare i tuoi ricordi per illuminare tragitto assicuri e scordi accordi di memorie di giorni sordi rifatti in musica, amando i tuoi sogni di nuova linfa limpidi. Di nuovo all'infa limpidi, il cuore che dentro di me lei rugge, il cuore che dentro di me lei rugge, il cuore che dentro di me lei rugge. Toc toc alla memoria della porta dell'amore, toc toc alla memoria della porta dell'amore, toc toc alla memoria della porta dell'amore, dell'amore. Oh. pensa che usi per ricordare e celebrare le memorie che nessuno altro ha. Il tuo demone saprà fare il tuo immenso, il mio demone sa fare il mio immenso. Tocca le memorie dell'amore, della porta che nessuno ancora sa. Ogni uomo possiede un gesto della sua preghiera spontanea, quotidiana, un gesto che nessun altro sa, che usi per ricordare e celebrare le memorie che nessun altro ha. Il tuo demone saprà fare il tuo immenso gesto alla toppa della porta delle memorie dell'amore. Tocca alla porta delle memorie dell'amore. Tocca alla porta delle memorie dell'amore. Dell'amore. Tocca alla porta della memoria dell'amore. Il mio gesto immenso, spontaneo, ogni giorno alle porte dell'amore. Tocca alle porte dell'amore. Il gesto immenso. Tocca alle porte dell'amore. Il mio piccolo carion, la tocca delle porte dell'amore. Amy Sprisham, I love you now. Little Pamela, I love you. I love you. I wanna scream the night alone, baby, baby. You can roll me in your little kiss, baby. You're a little baby for the guys, baby. A pin for the guys in my life, yeah. Forte carillon dell'amore. I wanna see you, baby. I wanna see you. Welcome in the rain of love. Welcome in the superb rain of love. Are you a little Larry? Larry. And this is the ginger shit of love. Maybe where you find the house. Maybe some little monkey girl sing outside my house. You sing outside my house in my little monkey barrel now. To my mama and to my daddy, you know how much I love you. You know the ears and the ears of fucking pain of this motherfucker in my life. You know I love you. You know I love you, Varese. You know I love you. Like you are the most beautiful city in the world. Like the poetry and the poetry in day life. You are my native city. You know I love you, mammy and daddy. You know I love you, my family, for all the life.